Diretta radio dal Media Center al CSOA Il Molino di Lugano per seguire le manifestazioni contro il G8 in Scozia. Collabora anche tu. Servono in particolare traduttori e traduttrici. Collegati in chat al server http://irch.autistici.org nel canale indie.ch.